ormai ci stiamo avviando alla fine di questo processo che ha fatto tanta chiarezza su una vicenda estremamente controversa, ma resa tale da depistaggi finalizzati, mirati sotto un profilo soggettivo, cioè a far assumere la responsabilità della morte di Stefano e del pestaggio agenti, soggetti diversi rispetto a quelli che effettivamente ne sono stati responsabili. Il secondo filone di depistaggio, ancora più subdolo, che è risultato ancora più dannoso, quello di carattere medico-legale, cioè quello di mentire sulle condizioni di salute Stefano fin dai primi momenti, e quello di anticipare le conclusioni di perizie medico-legali, o presunte tale, perché devo definirle così, che a distanza di mesi, di anni, vengono sintetizzate in due atti interni redatti dal generale Casarsa il 30 di ottobre del 2009, quindi 8 giorni dopo la morte di Stefano, solo 8 giorni dopo la morte di Stefano, e il 1 novembre del 2009 dal generale Tomasone, il cui testo è veramente imbarazzante, perché quando ancora dovevano essere nominati i cosiddetti super consulenti del pubblico ministero, quando ancora dovevano essere nominati, cioè un anno più tardi, un paio d'anni più tardi, i cosiddetti super periti della corte d'assise di primo grado, il comando generale dell'arma aveva già fatto la sua perizia medico-legale senza sapere niente, senza sapere nulla. Si partiva da un presupposto falso, cioè che Stefano stesse male, che purtroppo residua ancora negli atti dell'altro processo che rimane in piedi, ma si è appunto prescritto grazie all'aiuto del comune di Roma, quando viceversa sono sfilate decine di testimoni che hanno dimostrato che Stefano faceva una vita assolutamente normale e aveva una complessione fisica esattamente identica a quella della sorella, peso e anche dal punto di vista della magrezza. Erano due ragazzi, due fratelli che erano di quella costituzione, andava a correre, andava in palestra, faceva la sua attività normale, e praticamente noi abbiamo parlato tutti gli ultimi 15-20 giorni della sua vita, li abbiamo portati in giudizio, e diventa imbarazzante assistere a conclusioni da parte, analisi di presunti anestesisti che definiscono le condizioni di Stefano precarie, addirittura malandate, ammesso non concesso che questo potesse giustificare o legittimare quel violentissimo pestaggio di cui poi è stato fatto vittima. L'altra fonte di depistaggio è quella di negare appunto il pestaggio. Non si dimentichi che consulenti e periti hanno sempre a gran voce sostenuto una caduta preferibilmente accidentale, nell'ambito della quale Stefano si sarebbe procurato tutte le lesioni. Sappiamo oggi anche dalla confessione degli imputati che è andato tutto diversamente. Questo processo che dovrà partire, è un processo importante, perché è un processo che, insieme a quello che stiamo vivendo contro gli imputati corretti, ci è costato ben 10 gradi di giudizio inutili. Sto parlando di 7 anni, anzi veramente 10 anni, perché il processo sbagliato è ancora in modo surreale, con una perizia che viene riportata in modo surreale, con un accertamento surreale ancora in piedi di fronte alla Corte d'Assise d'Appello. Un processo tutto sbagliato, dove si pensa che la prova testimoniale sulle condizioni di Stefano è resa da coloro che poi dopo adesso sono chiamati a rispondere della morte, che oggi sono imputati. Insomma, si capisce poi se vedono gli atti fatti a pochi giorni, le falsificazioni delle annotazioni, la cura dei particolari nella stessa, malessere generale, tossicodipendenza, anoressia, parole che Stefano non ha mai pronunciato e che nessun medico legale aveva ancora pronunciato, addirittura sieropositività, cioè quindi uno status patologico che è tutto falso e che non è non rispondente al vero. Cioè, si era designato a tavolino una perizia medico-legale che poi è stata quella, veramente emersa in maniera talmente imbarazzante che oggettivamente io, se fossi giudice della Corte d'Assise d'Appello di Roma per quanto riguarda la sua sanità medica, sarei veramente in difficoltà, sarei in imbarazzo, perché mi trovo di fronte ad una situazione che è palesemente falsata e viziata, per non parlare poi parlando dei periti, della perizia Grandi Cattaneo, del grande risalto che è stato dato per quanto riguarda gli accertamenti radiologici alla cosiddetta combi di Chieti, che è risultata essere un'apparecchiatura, un TAC che avrebbe dovuto sciogliere ogni dubbio sulla sussistenza della frattura dell'emisoma superiore di L3, questa combin che abbiamo scoperto essere un'apparecchiatura per dentisti che era a Chieti, che abbiamo poi scoperto dalla voce della dottoressa Ferragalli che quel referto che è stato invocato non era in realtà un referto e che lei non intendeva assolutamente lo fosse. Abbiamo scoperto dalla dottoressa Ferragalli che è l'ausiliaria del perito Cattaneo, diversamente da quanto giurato in udienza dal perito Cattaneo. Abbiamo scoperto che l'accertamento è stato fatto consegnando un sacco di ossa appartenenti a cadaveri diversi, nell'ambito del quale vi era anche quel gruppo vertebrale sul quale sono parole dottoressa Ferragalli, vi invito ad andare ad ascoltare Radio Radicale come le ha pronunciate, cioè avrebbe dovuto testare lei la funzionalità della macchina, la tendibilità della macchina, non fare l'accertamento risolutivo per una questione che si rivelava di nodale importanza. Abbiamo scoperto dalla voce del professor Masciocchi, ma dalla conferma della dottoressa Ferragalli, che lavorava per quella perizia per la quale siamo in corte d'assise d'appello ancora dopo 2 annullamenti della Cassazione, abbiamo scoperto che mancava proprio la parte superiore dell'emisoma che era stato tagliato, che era decalcificato, tagliato, dove di fatto la frattura era e insisteva ben visibile radiologicamente nell'attacco, e viceversa era stata fatta con la colonna vertebrale ancora intera. Quindi questo non so più che cosa dire, francamente. Poi c'è qualcuno che grida vittoria e qui purtroppo di questo processo se ne occupano persone poco tecniche ma più politiche, e ormai abbiamo già capito che com'è il modo di fare politica oggi, è un modo di comunicazione, di semplicistica, spesso fuorviante, deviante, e spesso delle vicende processuali di Stefano si è fatto torto collo a danno dei familiari, si è fatta politica in questo modo, e si continua a fare. Un'altra cosa sono gli atti giudiziari. In ogni caso, anche dalla vostra prospettiva, questo puzzle complicato sembra ricomposto a questo punto, no? Ma basta seguire gli atti, basta seguire il processo. Il processo ha chiarito tutto, certo. Ha raggiunto livelli di prova che difficilmente un processo penale può raggiungere, difficilmente può arrivare ad essere così preciso e così determinante, così esaustivo come è avvenuto in questo procedimento. Questo grazie anche e soprattutto al dottor Mussarò, al procuratore Pignatone. Se le dico che sono stati trovati i documenti ufficiali in cui questi depistaggi sono di fatto cristallizzati, formati pochi giorni dopo la morte di Stefano, è una prova documentale che nell'ambito della quale uno degli odierni indagati, che auspico prossimo imputato, si è avvalso la facoltà di non rispondere, parlo del generale Casarsa, così come Soligo, così come Cavallo, però è talmente evidente, talmente imbarazzante, che oggettivamente qualsiasi ricostruzione diversa o qualsiasi dubbio urterebbe proprio i principi della logica e della credibilità razionale, qualsiasi ricostruzione alternativa. Anche seguendo il processo, un po' anche dalle notizie arrivate sulla stampa, si vedeva il coinvolgimento che risaliva la catena gerarchica dei carabinieri, sì. Quindi possiamo parlare non più solo di comportamenti individuali, ma sembra quasi un sistema. Per quanto riguarda Stefano Cucchi è stato un sistema, nelle carte, nelle parole, negli atti, nelle intercettazioni si capisce chiaramente che la scelta di questo depistaggio venne decisa dall'alto e non dal basso, e venne decisa per una semplice considerazione, che l'arma dei carabinieri non poteva permettersi in quei giorni, i giorni della morte di Stefano Cucchi, un altro scandalo dopo gli arresti dei carabinieri coinvolti nell'estorsione in danno del governatore del Lazio Marrazzo. Si nomina proprio questo caso, viene fatta una riunione il 12 novembre dove si discute del caso Cucchi e del caso Marrazzo. È veramente un patologico e malinteso senso di appartenenza, di spesa di corpo e di rispetto per l'arma. L'arma si rispetta in altro modo, l'arma si rispetta rispettando la legge, rispettando le norme e censurando anche colui che appartenendovi le viola.